after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. E cari eutopisti, ben ritrovati nel mondo delle eutopie cyberdadà, nei labirintici universi cyberdà di questa nostra comunità invisibile. Interrogandomi, camminando per giungere fin qui, mi sono detta che questi luoghi che ci ospitano, la Radio Asilo, il centro sociale Jan Assen, sono in effetti dei luoghi utopici, così come gli esseri che li attraversano sono degli utopisti. Abbastanza chiaro, direte voi? Ebbene sì. E allora, questa sera mi piacerebbe, soprattutto, evocare le atmosfere dei tanti luoghi utopici che per tutti questi anni ho abitato nel farsi dell'arte, della scrittura, del pensiero, della costruzione, della scienza, della politica. Luoghi strani, singolari, molteplici, mobili, in situazione penetrabile, in movimento imprevedibile, che interrogano interrogandosi. Zone non zone, che nelle molteplici messe in scena contemporanee tentano di rinnovare le relazioni attuali, anormali, irritanti e false, nell'offerta una e comune. Laboratori che, pervasi dal sogno utopico di interpretazione e di trasformazione, aspirano a mettere in movimento ciò che è immobile, contestano l'incontestabile e sventano lo scandalo dell'arrivismo, delle astuzie, delle ricette. Spazi di libertà, resistenze comuni dinanzi alla rassegnazione isolata, dove sopportare il sospetto di una cultura indifferente e mediocre, costretta a confrontarsi con le culture cosiddette minoritarie, portatrici di valori altri e irriducibili soprattutto al mercantilismo generale della vita e all'assoggettamento progressivo degli individui. Dove diffidare delle ottuse dicerie dei predicatori della necessità assoluta, delle manipolazioni possibili degli spiriti polizieschi che ci spiano e che si nascondono dietro un certo razionalismo, creatore di tutti i totalitarismi e che riduce ogni avvenimento energia in stanca opacità. salaud, chante à la gloire de la victoire du père fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. On l'a vu venir même d'un seul œil, l'enfant maudit du père cyclope, en s'écriant vivement dimanche, tournant les pages des livres, le petit livre blanc. Y'a trop d'arabes dans mon pays, trop de musulmans, trop de pratiquants, pas assez de blancs, de bons chrétiens pour ramasser nos petites poubelles. On aime le vin, le saucisson, les vraies valeurs de la nation que l'on marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam. Les bonnes recettes du pot-au-feu que l'on cuisine dans notre histoire. Même la Saint-Barth et la Shoah n'ont pas rendu ces gens moins sombres. Qu'on les opprime, qu'on les enferme dans leur ghetto comme dans leur camp. Voilà ce que pensent nos dirigeants jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire du père fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. Que l'on libère nos langues de pute qui donnent la voix aux députés, à ces ministres qui chantent en chœur les pires chansons du front, les pires chansons du front. À ces penseurs par intérim qui crèvent l'écran à coups de haine et qui nous vendent à coups de peur tout le bonheur d'un père fasciste. Je veux vous dire comme je vous aime, je vous châtie de tout mon cœur, en espérant qu'un jour prochain vous vivrez comme des chiens, vous vivrez comme des chiens. J'ai trop d'amour pour ce pays, pour le lâcher entre vos mains, tout entaché d'une âme impure. Je grave ces mots dans vos sillons. Allez chanter vos vieilles rengaines, vous esclaver de vos slogans, vous endormir sur vos prières pour que demain soit pire, pour que demain soit pire. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire du père fouettard. Allez salaud, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. Mais où sont-ils nos bien-pensants pour bâillonner la femme sans tête? Vos grands penseurs de l'Élysée ne sont pas dignes de France, ne sont pas dignes de France. Je dirai tout ce que j'ai sur le cœur et peu m'importe ce que ça me coûtera. La liberté en ligne de mire sera mon seul chemin de croix. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons ariens, et vous les bons ariens. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons ariens. In queste reti rizomi si scoprono nuovi accordi, si sorprendono più segrete alleanze, si recuperano idee maltrattate ed insultate, si formano micro resistenze, micro rievoluzioni, che osano ergersi contro tutte le evidenze del giorno, il dominio prezzolato delle prerogative e dello spaccio di notizie, dove triviali poteri di nani morali separano e sorvegliano schiavi volontari e disorientati, seppelliti in un inquietante teatro conflittuale. La feroce gestione dei corpi sotto il controllo oppressivo dell'immediatezza, come nel castello del romanzo di Kafka, che pesa sul villaggio con tutta l'oscurità dei suoi decreti e la molteplicità dei suoi uffici. Tale è una minaccia che disciplina e controlla interi continenti, che aumenta la delega delle responsabilità individuali, che terrorizza una umanità già sgomenta e frammentata, diffondendo focolai di panico, cultura del sospetto, tossici inviti alla delazione, instaurando divieti deliranti e restrizioni indiscriminatamente punitive. Ma le nostre disobbedienti menti, dinanzi a tali simulazioni spensierate degli irresponsabili dell'ecocidio, assoggettati ad abiette potenze e tiranni di tristezze sottomesse, assumono le fragilità collettive in opposizione a qualsiasi isolamento, senza cadere nella trappola dell'ottemperanza che obbliga a morti parziali. E profondamente coscienti dei pregiudizi culturali, si sollevano verso la rivoluzione e evoluzione, rendono progressivamente inutilizzabili le strutture ormai obsolete che pretendono poter descrivere i meccanismi operazionali del mondo, stimolando intensamente l'impulso creativo e suggerendo, sottili e inafferrabili, avventure di esseri preliminari, capaci di disegnare un nuovo paesaggio del visibile, del dicibile e del fattibile. Paul Éluard. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Ce poème, imprimé pendant l'hiver suivant en Angleterre... Ai naviganti fuori di ogni porto, da sempre in alto mare, sempre in ascolto di un sogno, di un segnale, di un suono un po' speciale che arriva fin laggiù. È la poesia sospesa tra le onde che timida si affaccia, che si diffonde aprendo la sua scia come una melodia di musica del sud. Naviganti contro tutte le correnti, negli oceani trasparenti verso nuovi mondi. Naviganti un po' eroi e un po' perdenti, europei e un po' emigranti, un po' come noi. E con le stelle sfidare gli orizzonti, attraversare i venti ed inseguire così senza sapere fantastiche sirene di musica del sud. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Esseri preliminari, naviganti, utopisti, poeti, che sfidano la logica, coscienti che il dovere fondamentale dell'umano sia quello di agire perché ognuno, senza eccezione, possa vivere la propria unicità nel pieno sviluppo della conoscenza. Una conoscenza che non sia una possibilità in più né una scelta, ma una funzione di vivere, essenziale come quella della respirazione, e che cerca la vera libertà in una liberazione di fronte alla legge. Poiché, come afferma Jacques Rancière, non esiste ignorante che non conosca una moltitudine di cose, ed è proprio su questo sapere, su questa capacità in atto, che ogni insegnamento deve fondarsi. Istruire può dunque significare due cose esattamente opposte: confermare una incapacità nell'atto stesso che pretende ridurla, o, al contrario, forzare una capacità che si ignora o si nega a riconoscersi e a sviluppare tutte le conseguenze di questo riconoscimento. Il primo atto si chiama abbrutimento, il secondo emancipazione. L'istruzione è come la libertà, essa non si dona, si prende. E ascoltiamo ora la splendida poesia di Paul Éluard, Liberté, interpretata dallo stesso autore. Questo canto, in onore della libertà, adattabile ad ogni epoca e ad ogni paese, fu pubblicato dalla clandestinità nel 1942, durante l'occupazione tedesca di Parigi, mentre il poeta era entrato a far parte della resistenza, e venne lanciato a migliaia di copie dagli aerei alleati nella Francia occupata dai nazisti. Chi vorrà potrà facilmente ritrovarne la traduzione italiana sulla rete. Paul Éluard. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Ce poème, imprimé pendant l'hiver suivant en Angleterre, fut lancé sur la France par les avions de la RAF. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. E allora, per non abdicare pensiero dopo pensiero, continuiamo dai nostri orizzonti utopici a inquisire, sondare, indagare. Infaticabili resistiamo alle separazioni, agli antagonismi, alle frammentazioni che testardamente ancora persistono a manovrare le relazioni complesse tra scienza, cultura e società, imbavagliate da interdetti psicologici e limitate in artifici arbitrari. Apriamo il campo del pensiero al di là della società del lavoro e della produzione, rinforzando la disposizione al dono dovuto e dalla gratuità verso un'economia al servizio della cultura e della realizzazione del sé, e ad un capitalismo informativo che ci lascia credere ad una libertà come necessità di scegliere, cioè di rinunciare. Proponiamo l'audace scommessa del discorso poetico, creatore di spazi, sentinella di realtà nascoste, perché, come sottolinea Giorgio Agamben, la poiesis, la poesia, non fa riferimento a un'arte fra le arti, ma è il nome stesso del fare stesso dell'uomo, questa operazione produttiva che fa pensare e parlare un pensiero e una parola, condivisi da una pluralità di soggetti e che serve da fondamento all'intersoggettività di una società nella quale ognuno contribuisce a rendere reale una potenzialità. Pertanto, potremmo concludere con Beckett, suggerendo che ciò che potrebbe sopravvenire non sono che parole, delle parole che cercano di instaurare una relazione nuova con le cose, fondata sulla riscrittura dell'irrealizzato e preservata dagli artigli dell'utile. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Ebbene, eutopiste e eutopisti della comunità invisibile. Invisibile, veramente invisibile, perché sinora nessuno si è manifestato, nonostante i miei accorati inviti a fare vostra questa rubrica. Comunque, cari invisibili, dicevo, continuiamo a resistere insieme nella grande alleanza delle utopie sociali, artistiche, culturali, politiche, a riflettere ad altre boîte à outils per strutturare, distrutturando un'arte, una cultura dei divenire rievoluzionari. Alla prossima. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. See the world.